si tratta di mele marce o è marcia tutta la piantagione, forse a darci questa risposta ci può pensare Nicoletta che abbiamo in questo momento in diretta con noi, che salutiamo. Buongiorno. Ciao a tutte e a tutti. Bene, noi sappiamo che Nicoletta, insomma, che ha partecipato alla costruzione di questa mattinata informativa insieme a noi, si è preparata un contributo particolare proprio sul monopolio statale della violenza, in particolar modo di come le violenze, quindi anche sessuali, delle divise in pace e in guerra, abbiamo visto insomma quanti siano anche i casi di violenze e abusi sul nostro territorio, si collochino appunto in questo stato di fatto, tenendoci in un continuo stato di guerra del patriarcato contro le donne. Io, Nicoletta, ti lascio la parola, ti chiedo se puoi, se riesci, di alzare un po' la voce perché sei molto bassa, e poi insomma interverremo per chiederti altre cose. Benissimo, sì, così mi si sente? Sì, vai pure, vai. Ok, benissimo. Ecco, io partirei subito dal chiarire che secondo me non siamo molto in pace, nel senso che l'attuale militarizzazione del territorio italiano ci dimostra che ormai la guerra ce l'abbiamo in casa, non è altrove. E da questo punto di vista condivido il testo del volantino delle compagne di Bologna, che immagino leggerete poi, dove comunque si parla del rimando appunto tra territorio italiano e territori, diciamo, esteri di guerra. Questo per me è importante sottolinearlo proprio perché come dire, ci fa entrare anche direttamente nella questione del monopolio statale della violenza e anche sul rischio che si cela, il gravissimo rischio, dietro una posizione che sostiene la non violenza a tutti i costi. Ma parto dall'inizio. Intanto chiariamo che è dalla sua nascita che lo Stato moderno detiene proprio il monopolio legale della violenza, e questo monopolio ha come corollari la stigmatizzazione e la criminalizzazione della rabbia. Termini come ordine o sicurezza, che negli ultimi anni sono ritornati sempre più frequentemente, sono utilizzati per indurre le popolazioni a sentirsi delle potenziali vittime e a delegare quindi la propria incolumità a un'entità superiore che è lo Stato. Lo Stato quindi decide cosa è bene e cosa è male per le popolazioni, e quindi il monopolio legale della violenza implica anche il monopolio statale dell'etica, cioè implica lo Stato etico, e questo già dovrebbe essere un punto che ci fa riflettere tantissimo, cioè quindi, come dire, lo Stato tra virgolette democratico da questo punto di vista non si differenzia in nulla da una dittatura. Questo discorso sulla sicurezza serve ad alimentare la paura, come dicevo, a generare un bisogno di sicurezza di cui lo Stato si fa garante, anzi l'unico garante. È una strategia paternalistica, ti nego la libertà per il bene tuo e dell'intera comunità. Dove questo tipo di persuasione non funziona, lo Stato agisce con metodi autoritari. Se ragioniamo su di noi come donne, vediamo che le leggi che dovrebbero tutelarci in realtà sono leggi che ci infantilizzano e ci vittimizzano in quanto donne, sono leggi che sono il prodotto di una cultura sessista e che a loro volta alimentano questa cultura sessista. Quindi il dispositivo ideologico che sta dietro a queste leggi che ci infantilizza non dà forza alle donne, ma a chi incarna questa protezione, quindi ancora una volta allo Stato e ai suoi operatori in divisa. Quindi noi veniamo indebolite in realtà dalle leggi che ci dovrebbero tutelare, e questo per me è un grosso interrogativo, per esempio rispetto proprio al discorso della denuncia legale delle violenze sessuali, no? Infatti sappiamo appunto che oggi all'Aquila, in questo processo che si apre, il rischio grosso che la vera processata sia questa donna, questa giovane donna che ha contro cui è stata agita questa violenza terrificante. Anche perché non dimentichiamo che cosa sono i tribunali e tutto l'apparato giuridico. L'apparato giuridico, dico una banalità, ma ogni tanto serve anche ricordarle queste cose, no? Per non essere ingenue, non è neutro, ma è espressione della classe dominante, del genere dominante, del gruppo etnico dominante, e per cui ne tutela gli interessi e i profitti. E allora è chiaro che, per esempio, autodeterminazione e autodifesa, che per noi compagne femministe radicali sono due punti fondamentali, sono incompatibili sia con l'apparato giuridico quanto con tutti i processi di delega istituzionale, proprio perché le istituzioni sono espressione di questo dominio capitalistico e patriarcale. Questo dominio, appunto, come dicevo, infantilizza e vieta l'espressione della rabbia, ma la rabbia è appunto una reazione opposta alla vittimizzazione di sé, perché rompe con la logica passivizzante del percepirsi come vittima. Ed ecco che allora qui vediamo la pericolosità del discorso sulla non violenza, portato anche avanti da alcune femministe che io chiamo per bene, proprio perché di fronte a questo quadro parlare di non violenza significa farsi complici dell'autoritarismo e del monopolio statale patriarcale, sia della violenza che dell'etica. Faccio un esempio: quando una donna, ad esempio, uccide il marito che la massacra da anni, o una donna si ribella ad un tentativo di violenza sessuale e fa del male al violentatore, non viene fornita alcuna giustificazione, anzi la si punisce per non aver delegato allo Stato la propria difesa e la si condanna come assassina. Cioè, le donne dovrebbero prima farsi ammazzare o farsi violentare, no? E poi ci pensa lo Stato a fare i conti con l'autore della violenza sessuale o del femminicidio. E su questo io penso che noi come compagne dobbiamo fare una profonda riflessione, perché ci troviamo ancora un po' sguarnite di strumenti. Venendo alla questione, ecco, no, aggiungo anche una cosa su questo, cioè che tutte le donne fino ad oggi che hanno reagito alla violenza si sono ritrovate incarcerate e isolate. Io credo che di fronte a una donna che reagisce con forza contro il suo persecutore, il suo molestatore, il suo violentatore, la prima cosa da fare sarebbe quella di cercare di metterci in contatto con lei, naturalmente con il massimo rispetto, senza invadenza, offrirle il sostegno e presentare alle udienze che la vedono come imputata. Cioè, noi non dovremmo presenziare solo ai processi per stupro, ma io credo che bisognerebbe presenziare con un discorso forte su autodifesa e autodeterminazione anche quando vengono processate le donne che reagiscono. Questo monopolio statale della violenza, come dire, aggiunge un di più all'arroganza criminale degli uomini in divisa. Cioè, rispetto alla violenza contro le donne, noi parliamo di violenza maschile contro le donne, ma quando abbiamo appunto a che fare con uomini in divisa c'è questo di più di arroganza criminale legittimata dallo Stato. E non è un caso, ad esempio, che se andiamo a vedere il rapporto sui femminicidi, la gran parte degli uomini che uccide le donne sono uomini che per lavoro detengono un'arma. Faccio il caso di, per far vedere i paradossi proprio, no? Istituzionali. Nel 2006 un militare statunitense che si trovava alla base di Ederle a Vicenza, di ritorno dall'Iraq, stupra e massacra una donna nigeriana, abbandonandola poi nuda, massacrata e ammanettata per strada. In sede processuale a questo militare americano verrà riconosciuta come attenuante lo stress da guerra. Ora, se noi andiamo a vedere lo stress da guerra, quella che si chiama disturbo post-traumatico da stress o detto anche nevrosi di guerra, in realtà questo disturbo post-traumatico da stress è una cosa che riguarda le vittime delle violenze e non i carnefici. Eppure, appunto, definendolo nevrosi di guerra, viene considerato come l'effetto sulla vita del povero militare che tali e tante cose ha visto nel teatro di guerra da aver perso completamente le coordinate, diciamo, no? Le attenuanti riconosciute a questo militare furono appunto lo stress psicologico prolungato e la ridotta importanza data alla vita umana conseguenti all'anno trascorso sul fronte di guerra. Quindi la guerra diventa un attenuante. Allora ecco che di fronte a un processo come quello che si apre oggi all'Aquila, dove appunto se noi ragioniamo sul fatto di avere la guerra in casa con la militarizzazione dei territori, già vediamo cosa si prospetta in questo, come proseguimento di questo processo, da cui naturalmente ancora una volta non ci aspettiamo nulla. Questo stress da guerra, questa condizione, questa nevrosi da guerra, in realtà se andiamo poi a scavare è l'equivalente che troviamo negli altri casi di femminicidio, diciamo tra virgolette civile, nel senso non da parte di uomini in divisa, che viene sempre spiegato con il raptus, no? Pare che gli uomini soffrano di questi raptus e allora hanno il raptus e ammazzano le donne, le massacrano, siano queste le loro mogli, compagne, ex compagne, conoscenti o anche delle donne sconosciute. Quindi c'è già in sé una giustificazione che, come giustamente voi rilevavate prima, passa anche attraverso il linguaggio mass mediatico. Voi avete giustamente nominato questo ultimo caso, diciamo ultimo nel senso che è emerso, perché poi chiariamoci, cioè tutta questa lista che era stata raccolta da Noi Non Siamo Complice, che voi state leggendo, sono i casi emersi, cioè i pochi casi finiti in tribunale. Ma c'è una quotidianità di queste violenze nei territori militarizzati in particolare, ma in generale anche nei territori, diciamo, dove il pacchetto sicurezza ha fatto sì che fossero dei pattugliamenti, dei controlli antiprostituzione, eccetera. Infatti le prostitute e soprattutto le prostitute straniere sono messe pericolosamente a rischio sulle strade, ma non tanto da parte dei clienti e degli sfruttatori, sì, ma anche da parte di chi fa questi controlli, proprio perché sono fortissimi i ricatti sessuali, appunto, proprio per la loro condizione di clandestinità. E allora ecco che per esempio è terrificante che nel caso di Como, dove quest'uomo di 40 anni più grande di questa ragazzina, dopo averla ingannata, essersi spacciato per un ventenne, poi essersi presentato come il padre di questo ventenne, eccetera, il giorno parli di Camporella. Ora la Camporella a noi cosa evoca? Evoca proprio la scoperta quando si è adolescenti del sesso, quando ci si imbosca, cioè un momento di come dire, di approccio giocoso, quando si incomincia a sperimentare la sessualità. E per cui vengono usati dei termini proprio per edulcorare qualcosa che invece è terrificante, no? E io credo che su questo ci sia proprio una complicità criminale da parte di chi scrive questi articoli nei confronti degli stupratori. Vorrei poi rilevare un'ulteriore questione che mi sembra assolutamente importante. Per anni come compagne, anzi da anni come compagne, in particolare dal 2007, no, da quando volevano far passare il pacchetto sicurezza in nome proprio della sicurezza delle donne dopo l'omicidio di Giovanna Reggiani, stiamo dicendo, appunto, stiamo denunciando le violenze degli uomini in divisa, dicendo che non è quella la nostra sicurezza, ma che la nostra sicurezza ce la dobbiamo autodeterminare, e stiamo anche nominando le violenze all'interno dei CIE. Ma se ci pensiamo, quando cercarono di far passare col discorso della sicurezza delle donne il pacchetto sicurezza, in realtà non c'era in quel pacchetto nessuna norma che riconoscesse come attenuante, che riconoscesse mezza attenuante alla donna che reagisce alla violenza. Quindi non solo si voleva far passare la militarizzazione del territorio italiano sulla nostra pelle, ma addirittura, come dire, cancellandoci completamente, no? Quindi riducendoci proprio a delle larve che hanno bisogno di essere difese da altri, e questi altri, appunto, li abbiamo visti all'Aquila e li abbiamo visti da tante altre parti in questa litania, appunto, di casi di stupro emersi sui giornali e venuti quindi alla ribalta. Il 5 novembre a Bologna si apre un processo contro alcune compagne. Queste compagne sono accusate di vilipendio al prestigio e al decoro della Polizia di Stato nel suo complesso, per aver esposto uno striscione in cui si diceva nei centri di espulsione la polizia stupra, e un altro striscione con scritto la questura deporta chi denuncia gli stupri. Ora è curiosa questa cosa, perché proprio diciamo, questo processo nasce da indagini fatte dalla Digos di Bologna, e la questura di Bologna, insomma, è venuta alla ribalta delle cronache per vari casi invece di violenze e di ricatti sessuali nei confronti delle donne, in particolare delle donne migranti. Nei casi che si sono, e lì vedremo poi come va questo processo, perché se passa questa logica è qualcosa di estremamente pericoloso, cioè non si può parlare di stupri in divisa, questo naturalmente significa questo processo. Allora ecco perché non possiamo delegare i tribunali, perché i tribunali sono anche quelli poi che ci processano per queste cose, no? Ricordo tra l'altro che per lo striscione nei centri di espulsione la polizia stupra, a Milano il 25 novembre del 2009 le compagne vennero pesantemente caricate e massacrate di botte, perché quella era una verità che non doveva emergere, anche se poi in realtà da lì a breve questa verità ha fatto sì che venisse chiusa la sezione femminile del lager di Via Corelli, del CIE, del lager per immigrati di Via Corelli. Quindi evidentemente non, era diventata una situazione ingestibile. Però fatto sta che tutti gli ispettori capo che sono stati portati a processo per botte, violenze e stupri sono tutti poi stati assolti. Quindi ancora una volta sostanzialmente lo Stato si autoassolve. E allora ecco, per ragionare così, io lo do come spunto, poi ci dobbiamo lavorare naturalmente tantissimo come compagne, però per ragionare su queste questioni legate al monopolio statale della violenza e a noi come ci possiamo autotutelare, direi che è fondamentale in qualche modo ridefinire il concetto di autodeterminazione nei termini di rabbia e di ribellione, cioè recuperare con forza questi due termini, perché se non portiamo avanti la nostra rabbia, non portiamo avanti la nostra ribellione, ci ritroveremo sempre indebolite da uno Stato che ci vuole tutelare, e anche da femministe per bene che ci dicono che è bene che lo Stato ci tuteli. E faccio un ultimo esempio. Io ho letto ieri un comunicato dell'UDI di Napoli dove si faceva notare la coincidenza tra l'inizio del processo all'Aquila oggi e il fatto che domani ci sarà una sentenza per femminicidio a Napoli. E sostanzialmente questo comunicato che vi ho anche mandato, per cui poi magari lo si può anche leggere se volete, però insomma non è importante leggerlo, l'importante è il contenuto, no? In qualche modo ancora una volta chiede che i giudici non garantiscano più l'impunità di queste persone. Ma io cosa vado a chiedere ai giudici? Questo è un interrogativo grosso, cioè se continuiamo a ricadere in questa logica della delega non ne usciremo più, rimarremo sempre complici di questo monopolio statale della violenza, perché anche l'apparato giuridico è uno degli apparati istituzionali dello Stato che detiene questo monopolio. E direi che voi avete citato il caso delle ribelli di Corelli che portarono appunto l'ispettore adesso a processo. Ecco, nel caso di quel processo, per esempio, le motivazioni dell'assoluzione dell'ispettore capo furono il fatto che lei non fosse attendibile in quanto immigrata che mirava ad avere un permesso di soggiorno. La stessa cosa è valsa in Cassazione per l'assoluzione dell'altro ispettore capo, il famoso affittacamere, che appunto inizialmente accusato di aver violentato una trans, poi viene assolto perché secondo i giudici in realtà questa trans voleva il permesso di soggiorno, no? Quindi ci troviamo proprio di fronte a delle cose così terrificanti. E tra l'altro pensiamo al paradosso: il caso delle ragazze nigeriane che denunciarono l'ispettore di via Corelli per violenza sessuale, perché poi non si trattava di molestie, era proprio saltato addosso a una mentre dormiva incominciando a palparla, e questo è violenza sessuale, avviene dopo l'approvazione del pacchetto sicurezza, no? Dopo l'approvazione del pacchetto sicurezza che prolunga la detenzione nei CIE fino a 6 mesi, scoppiano delle rivolte in tutti i CIE e queste donne vengono processate per aver partecipato a questa rivolta, ed è proprio in sede processuale che emerge questa storia della violenza sessuale. Ma che cosa c'è di più normale di una donna che si ribella alla violenza maschile così come alla violenza della detenzione in un lager per immigrati, no? Eppure a questa donna è stata completamente tolta la voce. E allora, ecco, lo ripeto, questi sono tutti degli elementi, io li ho buttati lì perché non voglio togliere il tempo ad altri interventi, e mi sembra estremamente importante e interessante la trasmissione di questa mattina. Li butto lì proprio perché come compagne li riprendiamo per fare una riflessione seria e non ritrovarci sempre solo sotto i tribunali a presidiare durante i processi per stupro, cosa giustissima e che va fatta, e però non risolve il problema, come dire, arriviamo a cose fatte. In qualche modo invece noi dobbiamo incominciare a ragionare in termini di prevenzione, a partire proprio da quello che per noi come femministe è un principio fondamentale, anzi due principi fondamentali: autodifesa e autodeterminazione. E mi fermerei qui per non togliere altro tempo, a meno che non abbiate domande. Ma resteremo ovviamente un bel po' a discutere, a riflettere con te, perché hai aperto davvero tantissime porte, ma purtroppo questa mattina non abbiamo il tempo e la possibilità di così andare a sviscerare tutti i nodi. Sicuramente la chiusura che hai fatto sulla questione dell'autodeterminazione, a questo punto declinata su appunto due concetti come rabbia e 105-250 di blackout, ci sta ascoltando in streaming dal sito della radio. Dopo questa